Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se uno una cavolata la dice, può capitare, cioè adesso siamo tutte persone normali. Il problema è avere l'onestà di riconoscerlo, non è il mio pensiero, punto. Stan polemizzando su una cosa che io non penso. E che cavolo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la voce inconfondibile di Landini, il segretario della FIOM, che stava cercando di ritrattare un po', di scusarsi rispetto all'attacco che aveva sferrato oggi a Renzi, almeno così sono state riportate le sue parole, cioè che avrebbe detto, poi lo risentiremo, sentiremo l'audio in cui lo dice, che Renzi non deve rendersi conto che in questo momento non è sostenuto e non ha il consenso dei lavoratori, dei precari, di chi perde il lavoro e dei tante persone oneste che ci sono in questo paese. C'è stata una diatriba piuttosto dura, poi si è scusato e questa è una parte di quello che ha detto. Ognuno può dire, può capitare di dire una cavolata. Poi parleremo di questo nuovo scontro con i sindacati, almeno con la FIOM, delle altre grane che potrebbe avere Renzi il governo. Comunque all'interno della maggioranza c'è questa tensione sulla social card, nelle modifiche alla legge di stabilità, social card per anche gli immigrati. E poi la cosa che fa più discutere è il canone RAI, che dovrebbe prossimamente essere pagato con la bolletta dell'energia elettrica, quindi la pagheranno tutti a quel punto, ma si pagherà meno. Che ne pensate di questa possibile soluzione? Se la prossima volta pagando a gennaio, no? Dovrebbe essere pagando la bolletta elettrica, pagherete dentro incluso anche il canone. Vi pare una buona soluzione? Potete esprimere le vostre opinioni liberamente sui vari fatti di attualità di oggi, in particolare su questo, se volete, su questo tema, attraverso due canali, come sempre la pagina Facebook Effetto Notte, che non si muove, è sempre lì per voi, e poi gli sms al 349-238-6666. Ma andiamo man mano a scoprire che giornata è stata. Nuovo scontro governo sindacati. Il leader della FIOM dice: Renzi non ha il consenso degli onesti. Il PD commenta: offende milioni di italiani. Squinzi sottolinea: io sono più che onesto. Elezioni regionali, si chiude la campagna elettorale. Renzi in Calabria spera di fare l'unplan. La Lega si gioca tutto in Emilia. La crisi europea, la Banca Centrale Europea vede nero sulla ripresa. Draghi annuncia misure extra e le borse volano. Milano a più 3,8%. Legge di stabilità, tensioni nella maggioranza su canone RAI e social card. Il monito del Papa: basta chiedere soldi per battesimi e messe. Intanto c'è stata la visita in attesa di Napolitano. Stati Uniti, guerra tra Obama e repubblicani che fanno causa al presidente sulla riforma sanitaria. Eternit, i legali del magnate svizzero Schmidaini dicono non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. Intanto la Cassazione conferma le condanne per le 37 morti da amianto a carico di tre ex dirigenti della Fincantieri di Palermo. Storace condannato a 6 anni per vilipendio, definì Napolitano indegno, e lui, Storace, dice: sono l'unico condannato per questo reato. A Milano una donna coinvolta negli scontri al Corvetto perde il bambino, aveva raccontato di essere stata picchiata da un agente, ma i medici smentiscono le percosse. Calciopoli, Moggi dice: possiamo perdonare, Moggi lo possiamo perdonare, dice Agnelli, rappresenta una parte importante nella nostra storia. Partiamo quindi dalla legge di stabilità con le novità. Giornata di intenso lavoro in commissione bilancio alla Camera, molti gli emendamenti dal governo sulla legge, appunto. Resta di 1,2 miliardi il taglio complessivo chiesto ai comuni come contributo alla legge di stabilità, ma non dovrà essere più coperto solo con la spesa corrente, anche con gli investimenti. Va incontro alle richieste degli enti locali con una maggiore flessibilità il pacchetto di emendamenti del governo per i comuni che si aggregheranno. Inoltre, il patto di stabilità scatterà solo dopo 5 anni. Agli ammortizzatori sociali saranno destinati altri 400 milioni in 2 anni, che andranno ad aggiungersi al 1,5 miliardi iniziale. Cambia anche il bonus bebè. Il governo sostituisce il tetto di reddito complessivo di 90.000 euro con un tetto ISEE di 25.000. Il bonus raddoppia però per i nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore ai 7.000 euro annui. Aumentano i fondi per i non autosufficienti, i malati di SLA, le emergenze, la tutela dei minori e il Made in Italy. Infine, il capitolo partite IVA, con la soglia d'accesso nel regime dei minimi pronta a passare da 15 a 20.000 euro. L'imposta sostitutiva per il regime di mini imprese e autonomi passa dall'attuale 5 al 15% e punta a togliere il limite di ricavi a 30.000 euro, per sostituirlo con livelli variabili in base al tipo di attività. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la legge di stabilità, dicevamo, conferma anche la social card per gli immigrati ed è ancora polemica anche all'interno del PD. L'emendamento del governo relativo alla social card agli immigrati è sbagliato e oggi non sarà nemmeno votato. Il dietro front arriva niente meno che dallo stesso PD, che all'orizzonte vedeva alzarsi il polverone della protesta. Per il presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, Francesco Boccia, infatti è una proposta fatta male e comunicata anche peggio, contro la quale si era subito scagliato il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, il quale ha detto che il governo Renzi con queste proposte istiga al razzismo. In realtà, guardando oltre il polverone all'orizzonte, l'emendamento è una finta notizia. Gli immigrati irregolari e con permesso di soggiorno in regola hanno già accesso alla social card. Lo ha previsto la legge di stabilità 2013 firmata dal governo Letta. Sembra il giurassico, ma è appena un anno fa. La legge di stabilità 2014 non fa quindi che confermare quella legge, non modifica i criteri per l'accesso alla prestazione, semplicemente rifinanzia il fondo e compensa le poste dei costi della distribuzione nei primi mesi dell'anno. La carta acquisti, lo ricordiamo, vale 40 euro al mese per acquistare cibo e medicine. Ne hanno diritto le persone con più di 65 anni, con un ISEE inferiore a 6.700 euro l'anno, e i bambini di età inferiore ai 3 anni, il cui genitore abbia sempre un ISEE inferiore a 6.700 euro. Italiani o stranieri, non cambia nulla, basta che questi ultimi siano regolari e con permesso di soggiorno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche, vi annunciavo prima anche sulle modalità con cui si potrebbero prossimamente pagare, si potrebbe pagare il canone RAI, no? Ne parleremo dopo. Vedo già molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche qualche messaggio al 349-238-6666. Per esempio Stefano scrive: io non ho la TV da anni ormai, perché devo pagare il canone RAI lo stesso? Questa potrebbe essere un'obiezione. Intanto Stefano sicuramente sente sempre la radio, Radio 24, in particolare Effetto Notte. L'ultima volta abbiamo sentito anche da Austin negli Stati Uniti, la sentono in Francia, in Olanda, quindi non perdete mai Effetto Notte, voi che comodamente la sentite dall'Italia. Poi c'è un nuovo scontro, dicevo, tra Renzi e i sindacati, in specifico la FIOM, per voce del suo segretario Landini. Avete sentito, Renzi non ha il consenso degli onesti, poi bufera con il presidente del PD Orfini, che dice ha offeso milioni di italiani. Poi Squinzi che dice, che sottolinea: io sono più che onesto. Insomma, ce ne occuperemo dopo diffusamente. Siamo sulla politica, la conclusione della campagna elettorale per le regionali. Domenica dalle 7 alle 23 si vota in Emilia Romagna e in Calabria. Il Presidente del Consiglio è a Cosenza per chiudere la campagna del PD. Matteo Renzi punta alla fine della campagna elettorale per le regionali in Emilia e in Calabria sul Jobs Act. Liberiamo il sistema tradizionale italiano, l'articolo 18 non è più un ostacolo e possiamo ridurre le imposte. Il Premier parla ai presidenti di Confindustria europei. Si salva il lavoro tenendo aperte le fabbriche, le aziende, non alimentando le polemiche e le discussioni. Si salva il lavoro risolvendo le crisi industriali, non giocando a chi urla più forte. Il Jobs Act, promette Renzi, sarà votato il 9 dicembre. Il decreto attuativo ci sarà da gennaio. Per l'Italia è un momento particolare. Prima dell'Europa dobbiamo cambiare il nostro paese. E al segretario della FIOM, Maurizio Landini, risponde coniando un hashtag: basta insulti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In Calabria il candidato PD è Mario Olivero, cuperliano, la sfidante schierata da Forza Italia e Fratelli d'Italia è Wanda Ferro. Poi ricorderò però anche i nomi degli altri candidati, c'è anche il Movimento 5 Stelle, Nuovo Centrodestra, eccetera. Ne parliamo poi con un politologo. In Emilia la Lega gioca una partita importante. Il candidato del Carroccio di tutto il centrodestra, il 35enne Alan Fabbri, se la vedrà col candidato del PD Bonaccini. Forza Italia ha deciso di ritornare tra la gente, sul territorio. L'ultimo giorno di campagna elettorale di Berlusconi, in vista delle regionali di domenica, comincia presto su Canale 5, ospite da Belpietro. Qui il leader di Forza Italia si scaglia subito contro le tasse sulla casa, che non solo è possibile, dice, ma doveroso eliminare. Poi ribadisce: il Jobs Act è inutile, non porterà posti di lavoro. Non sono io pessimista, tutta la Confindustria, tutti gli imprenditori pensano la stessa cosa. Più tardi il leader di Forza Italia rilascia un'intervista alle emittenti TV calabresi che andranno in onda questa sera. Inneggiando la sua candidata Wanda Ferro, il cavaliere fa promesse soprattutto agli anziani, dall'aumento delle pensioni alle dentiere gratis. Inaugura la giornata da Belpietro anche il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si dice certo di un successo della Lega anche al Sud. Ne sono convinto, perché alcune battaglie sono uguali a Milano, a Salerno e a Lecce. Più tardi, in attesa del gran finale a Bologna, Salvini, a margine del comizio a sostegno di Alan Fabbri a Modena, si esprime così sul ministro dell'interno. Alfano fa il ministro dell'invasione, ne sono sbarcati altri 2.300. Noi prepariamo un'alternativa a Renzi e alla sinistra, non abbiamo bisogno di Alfano. Questo, infine, l'auspicio l'auspicio di Matteo Salvini per l'Emilia-Romagna. Dopo 70 anni di cappa rossa è ora di aprire le finestre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la condanna per Storace, 6 mesi di carcere ma pena sospesa per vilipendio del Quirinale. Francesco Storace è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma, i fatti risalgono al 2007 quando definì indegno il capo dello Stato. Sono l'unico italiano a pagare, ha commentato il leader della destra. E parliamo anche di crisi, il presidente della Banca Centrale Mario Draghi accelera sulle misure extra per sostenere la ripresa, le borse festeggiano. Una ripresa più forte è improbabile nei prossimi mesi e la situazione dell'inflazione nell'eurozona è diventata sempre più difficile. Il presidente della BCE Mario Draghi avanza ancora verso il quantitative easing e l'acquisto di titoli di Stato, preparando governi e opinione pubblica all'unica svolta al momento possibile per ridare ossigeno a un continente in progressivo avvitamento. La Banca Centrale Europea è impegnata a ricalibrare le dimensioni, il ritmo e la composizione degli acquisti di titoli se necessario per rispettare il proprio mandato, dice Draghi, citando esplicitamente il quantitative easing messo in atto da Fed e Banca del Giappone. Infine, un ulteriore impegno: Francoforte farà tutto il necessario per alzare l'inflazione e le aspettative di inflazione il più velocemente possibile. Una vera dichiarazione programmatica che va a colmare il vuoto dell'immobilismo dei governi dell'eurozona. Dichiarazione subito festeggiata dai mercati, con Milano che sfiora il più 4% e Parigi e Francoforte oltre il 2%. A testimoniare l'atmosfera ottimista, la chiusura dei BTP decennali con rendimento al minimo storico del 2,21%. Lo spread con il Bund chiude a soli 144 punti base. E che l'aria stia cambiando, portando la zona euro verso un massiccio restyling, lo si intravede anche dalle parole del ministro tedesco Schäuble, che ha dichiarato: l'Europa deve urgentemente cambiare i trattati, almeno per l'eurozona, serve un rafforzamento della governance con un ministro delle finanze per 18. Schäuble ha chiosato laconico: non voglio dover difendere l'euro per i prossimi 5 o 10 anni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo della visita di Napolitano al Papa, che è durata circa 80 minuti oggi pomeriggio nella residenza di Santa Marta. Il Santo Padre ha ricevuto il Presidente della Repubblica Napolitano, l'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, questo dichiara il portavoce del Vaticano Padre Lombardi. Il Papa oggi tra l'altro ha anche lanciato un monito contro la mercificazione dei riti religiosi, ha detto basta chiedere soldi per battesimi e messe. Spostiamoci all'estero, negli Stati Uniti, ci sono praticamente rapporti molto tesi tra il Presidente Obama e il Partito Repubblicano, che ha deciso di fare causa all'amministrazione Obama su alcuni aspetti della riforma sanitaria, la cosiddetta Obamacare. Lo scontro tra i repubblicani e Barack Obama va in tribunale. I deputati conservatori hanno presentato una vera e propria denuncia in una corte federale di Washington contro il presidente per l'applicazione della riforma sanitaria. Accusano la Casa Bianca di violazioni per aver effettuato pagamenti irregolari a compagnie di assicurazione e aver rinviato a legge già approvata obblighi per le aziende e sanzioni. Sotto accusa sono il Ministero della Sanità e quello del Tesoro. Al di là però del merito dubbio del ricorso, l'azione legale rivela il clima incandescente che ormai regna a Washington. I repubblicani sono insorti e hanno minacciato ricorsi legali anche contro la sanatoria all'immigrazione illegale decisa ieri da Obama. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Eternit, il processo per omicidio a Stefan Sminaidi non si può fare perché si scontra col principio che non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto, è quanto sottolinea il professor Astolfo Di Amato, avvocato difensore dell'imprenditore svizzero. Nel frattempo però cosa succede? Sono state confermate dalla quarta sezione penale della Cassazione le condanne per omicidio colposo a carico di 3 ex dirigenti della Fincantieri di Palermo per la morte di 37 operai a causa del tumore per l'amianto, pene ridotte per alcune prescrizioni. Sembra un po' paradossale sale queste due notizie vicine, adesso non abbiamo tempo purtroppo di approfondire, ma insomma si andrà avanti a dibattere sulla questione Eternit. Parliamo di cronaca, una brutta storia che arriva da Milano, una donna che martedì ha partecipato agli scontri nel quartiere Corvetto durante gli sgomberi di 2 centri sociali, ha perso il bambino che aspettava, aveva raccontato di essere stata colpita da un agente di polizia a colpi di manganello. A confermare la notizia è stato il procuratore aggiunto Romanelli, titolare del fascicolo sugli scontri di Corvetto. Il magistrato ha disposto accertamenti in merito, anche se poi vedevo un'agenzia di medici che smentivano di aver trovato segni di percosse sulla donna. In chiusura parliamo di Calciopoli. Il presidente della Juve, Agnelli, su Moggi dice: lo possiamo perdonare, è stata comunque una parte importante della nostra storia. Agnelli lo ha detto la Triennale di Milano sull'opportunità di vedere allo stadio l'ex direttore generale dei Bianconeri dopo Calciopoli. Bene, direi di fermarci qui, stanno arrivando tantissimi vostri messaggi. Il canone Rai evidentemente è sempre un argomento molto popolare e c'è qualcuno che si preoccupa. Alice da Marostica dice: ciao Roberta, chi non ha la TV lo deve pagare ugualmente il canone in bolletta. E molti altri si chiedono: ma dovremmo pagare per esempio sulla radio? No, sulla radio non lanciate queste idee, silenzio, non provate neanche a fare proposte di questo tipo. Ci sentiamo dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina di Effetto Notte, la pagina Facebook. Veramente il canone Rai è stato un catalizzatore di opinioni e di messaggi, per lo più contrari, mi sembrano. Comunque, vi riassumo brevemente le notizie. Ancora scontro tra sindacati e Renzi. Renzi non ha il consenso degli onesti bufera su Landini della FIOM. Il presidente del Consiglio dice: non c'è più un ostacolo con l'articolo 18, investite, dice agli imprenditori. Poi Draghi e Banca Centrale pronta a nuovi acquisti e volano le borse a questa notizia. Ci sono delle modifiche alla legge di stabilità, tra cui abbiamo detto il canone, forse Rai pagato in bolletta, la social card per gli immigrati. E poi una lunga visita sorpresa di Napolitano al Papa oggi e rush finale in Emilia Calabria per le regionali che si voteranno domenica, anche se aleggia lo spettro astensionismo. Eternit, la difesa del magnate svizzero proprietario di Eternit, dicono un nuovo processo non si può fare, intanto per Fincantieri confermate le condanne per i morti da amianto. Bene, direi di affrontare il primo argomento. Saluto Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera. Caro no. amico di Effetto Notte. Alberto, allora partiamo intanto di questo nuovo scontro, no? Renzi, i sindacati, insomma, non c'ha proprio questo feeling, diciamo, i sindacati non ce l'hanno con lui, è reciproco, insomma, questo rapporto. Con Landini, oggi c'è stata questa polemica scaturita dalle parole attribuite, si dice, al segretario della FIOM Landini, poi smentite dal sindacalista. Vogliamo sentire che cosa ha detto Landini? Noi stiamo qui in piazza per chiedere di ridurre l'età pensionabile, di ripristinare le pensioni d'anzianità e di avere un sistema che dia le pensioni anche ai giovani. Apra un tavolo con noi su questi temi, se è d'accordo, e riapra la strada a questa discussione. E soprattutto deve rendersi conto che oggi lui il consenso di chi lavora, dei giovani che stanno cercando lavoro e delle persone oneste in questo paese, lui non ce l'ha. E questa cosa ha fatto molto arrabbiare il PD. Orfini, il presidente del Partito Democratico, ha detto: così offende milioni di italiani che quindi ritiene non onesti se sostengono il PD. È intervenuto anche il presidente di Confindustria, che si è sentito evidentemente chiamato in causa, visto che per il momento è soddisfatto delle misure che sta annunciando per il momento Renzi. Il presidente Squinzi, sentiamo cosa ha detto. Io personalmente mi ritengo una persona molto onesta, non onesta, di più. Quindi è un'opinione di Landini, noi riteniamo che questo paese abbia bisogno di un nuovo clima nelle relazioni industriali. E allora a questo punto d'obbligo la replica di Renzi. Si salva il lavoro tenendo aperte le fabbriche, le aziende, non alimentando le polemiche e le discussioni. Si salva il lavoro risolvendo le crisi industriali, non giocando a chi urla più forte. Allora, a questo punto vorrei, Alberto, che tu commentassi questa nuova puntata nel rapporto tra Renzi e i sindacati, e poi ci spostiamo su questa, soprattutto sul canone Rai, perché vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi e quindi vorrei capire poi anche cosa ne pensi tu. Citiamo qualche obiezione che c'è stata anche da qualche autorità, se non sbaglio, adesso lo vado a rivedere. Che dice Alberto? Ma insomma, la puntata di oggi dello scontro strategico, diciamo così, tra Renzi e sindacati segna un acuto sgradevole. Obiettivamente Landini deve stare attento alle parole che usa, non è la prima volta che spinge troppo il pedale della retorica tribunizia, che a volte sconfina nella violenza verbale e rischia poi di scatenare anche quella fisica. È una fase molto delicata in cui il conflitto sociale a diversi rivoli che possono unirsi e possono creare anche conseguenze non prevedibili e difficilmente gestibili. Quindi anche nella dialettica che esiste, che fa parte del nostro sistema e per carità è sacrosanta e contribuisce all'accrescimento delle idee, però bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Insomma, usare l'argomentazione che non sono gli onesti a seguire il Premier è francamente una sciocchezza. E ha dato il destro questa volta, è chiaro, a una controreplica che è stata abbondantemente utilizzata poi dalle strutture del partito, che non vedeva l'ora di poter segnare un punto a favore rispetto al rappresentante principale della cosiddetta nuova sinistra, insomma, che è un competitor a sinistra per l'appunto del PD. Anche se poi hai sentito che Landini l'ho fatto sentire proprio all'inizio, insomma, può capitare a tutti di dire una cavolata, non è questo il problema oggi nell'era dei tweet, insomma, lo vogliamo sentire, sì, sentiamo. Nel paese dei Twitter, dove vale di più tre parole che non un concetto e un ragionamento, può essere che uno aspetti di vedere se uno una cavolata la dice, può capitare, cioè adesso siamo tutte persone normali, il problema è avere l'onestà di riconoscerlo, non è il mio pensiero, punto, stanno polemizzando su una cosa che io non penso, poi se gli può essere utile auguri per loro, ma non è quello il problema che abbiamo di fronte. Allora, caro Alberto Orioli. Beh, vabbè, insomma, sì. È chiaro che ha dovuto chiedere scusa, sostanzialmente questo è normale, però proprio diciamo con i tweet, con il Presidente del Consiglio, in una fase 1 Landini è diventato un leader credibile, proprio perché Renzi scambiava con lui cinguetti, lo all'inizio andavano abbastanza d'accordo, sì, si stimavano. Come l'alternativa alla Camusso e gli era servito come cuneo per spaccare la CGL, ecco, adesso ecco. Invece i tweet non servono più, evidentemente. Senti, Alberto, io vorrei andare sulla legge di stabilità tutto tondo, però vedo che il punto cruciale per le ascoltatrici e gli ascoltatori è questa cosa del canone l'hai pagato con la bolletta. Allora ti leggo prima, facendo un carico di ossigeno, una sfilza di messaggi, poi tu mi dici cosa ne pensi, perché questo argomento tra l'altro non scontenta soltanto, diciamo, alcuni tra gli ascoltatori, ascoltatrici o tra i consumatori, ma ha creato tensioni nella maggioranza, perché il nuovo centrodestra ha tirato sulle barricate rispetto alla social card, parleremo anche di questo, da dare agli immigrati, e la tassa sulla TV nella bolletta elettrica, il canone appunto. Il nuovo centrodestra dice il canone è una stortura di sistema, e per quanto riguarda la social card, dice il nuovo centrodestra, il governo ritiri l'emendamento sulla social card agli stranieri perché non è opportuna, insomma. E c'è anche Bortoni, che è il presidente dell'autorità per l'energia, Bortoni, che dice che quello di pagare il canone nella bolletta elettrica è una modalità impropria, perché vede molti problemi nell'inserire il pagamento del canone RAI nella bolletta elettrica, così come potrebbe prevedere la legge di stabilità, è una modalità impropria di riscossione ed è di difficile applicazione. Allora ti leggo alcuni, aspetta che respiro. Allora, Michele sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: io pago il canone e mi sono rotto di pagare una RAI dei politici, basterebbe privatizzarla, nessuno dovrà pagare questa tassa per i parassiti di Stato, così vediamo se sono bravi o chiudono. Andrea: mi sembra, come diceva Fantozzi, una cagata pazzesca. Poi c'è Pier Giovanni: ho pagato per anni per chi non pagava, questa è concorrenza sleale, lo criptassero e non rompessero i cosiddetti, devo pagare per pagare le giacche di Vespa, lo insulto. Poi programmi Endemol della famiglia di Silvio Berlusconi, qualche raccomandato politico che lavora in quella cloaca televisiva, è un'estorsione, dice Marco. Certo, così io pago anche per il mio studio professionale dove non ho neanche l'impianto e l'antenna. Riccardo: bella idea, se a uno gli sospendono l'utenza e le bollette diventa un colpo solo moroso, in un colpo solo moroso per la compagnia della luce e per la RAI, sono dei geni. Tommaso: io non ho la TV da più di 30 anni e mi troverò a pagare il canone, sempre più dittatura. Ci sono anche molti altri messaggi sul fatto di non avere più la TV da tempo. Indrid, la sola che dice di sì. Tommaso: assolutamente no, pagare un canone per permettere alle aziende di entrare nelle case per vendere i loro prodotti è pura follia, sarebbe logico il contrario, le aziende senza di noi sarebbero morte. Questa è un'interpretazione particolare. Lorenzo: avete presente pagare tutti per pagare meno? Ecco, da 113 euro a 80 euro e tassano anche negozi, uffici, aziende, secondo voi incassano uguale di meno o di più? E così calano le tasse? Giorgio dice: è un delirio senza fine cancellare il canone, che non ha senso logico ad esistere, altro che intrufolarlo nella bolletta. E poi molti altri, ci vorrebbe respiro, poi vediamo se ne abbiamo tempo. Francesco dice: insieme alla bolletta ha senso, in base al reddito assolutamente no. Che ne pensi? Ma insomma, è chiaro che è un argomento ad alta sensibilità. Il canone è la tassa più evasa in assoluto. Io mi sono anche autodenunciata quando entrai in una casa dove continuavano a mandarlo i precedenti proprietari. Ho detto: no, guarda, ci sono io adesso, quindi posso dire che. Quindi c'è Squinzi, sono onesta. Esattamente, sì, anch'io ve lo pago. E tra l'altro, forse non di così tanto ben volentieri, però insomma, siamo in regola. Io poi non ci sono mai a casa, per cui. Però è vero che potrebbe essere l'occasione per fare un ragionamento un po' più razionale sul mercato televisivo, obiettivamente. Non che il tema non sia stato abbondantemente sviscerato in altre epoche, con tanto di polemiche e quant'altro, ma insomma forse sono maturi i tempi per aprire un pochettino a un'idea di privatizzazione di una parte della RAI, magari togliere i tetti alla pubblicità, creare un mercato vero, concorrenziale, visto che poi ci sono i canali digitali tematici, oramai il mercato è completamente diverso. E quindi ben venga se è l'occasione per dare un'iniezione di mercato a un settore che il mercato ancora tutto sommato non lo conosce fino in fondo, visto che c'è un grandissimo player totalmente pubblico e che non, sicuramente non gioca con le regole del mercato. Alberto, ma i tantissimi che mi scrivono che hanno la radio da tanti anni, la televisione se la sono dimenticata e ascoltano soprattutto Radio 24 e in particolare Effetto Notte, che cosa gli rispondono? Che cosa gli rispondiamo? Io penso che adesso non so come è scritta la norma e come sarà scritta, ma immagino ci sia la possibilità di autocertificare che l'apparecchio uno non ce l'ha e quindi allora siamo alle solite. Immagino che ci sarà un popolo di autocertificatori che di TV non ne hanno, questo mi sembra evidente. È chiaro che ci sarà un aspetto di questo tipo, mi sembra chiaro, perché bisogna anche tutelare chi effettivamente poi paga la bolletta elettrica ma non ha l'apparecchio. Quindi è un gran caos, io ci vedo già un gran caos. Assolutamente sì, l'importante è che però possa servire magari a ridurre l'importo, quindi pagare meno, pagare tutti. Alberto, invece sull'altro aspetto contro il quale il nuovo centrodestra ha subito lanciato i propri strali, cioè sulla social card anche per gli immigrati, la carta di acquisto. Ma insomma lì si fa campagna elettorale, non dimentichiamo, soprattutto su un tema di questo genere le argomentazioni non sono del tutto razionali, parliamoci chiaro. La social card è un esperimento che tenta per la prima volta di fare politiche per l'inclusione, per l'assistenza un po' pochettino più modernizzate, che siano estese agli immigrati non ci trovo niente di strano, perché quelle riguardano la fascia delle nuove povertà. Le nuove povertà non hanno colore e non hanno appartenenza di cittadinanza, diciamo così, e né avrebbe molto senso stabilire, come dire, delle priorità creando guerre tra poveri. Quindi penso che vadano derubricate come polemiche di tipo preelettorale, schiettamente preelettorale. Dimentichiamocelo che ci sono due appuntamenti importanti. Sì, domenica, tra poco ne parleremo. Sebastiano che scrive al 349-238-6666, l'imposta sul possesso della TV sulla bolletta dell'energia elettrica è un'ottima idea, ma non chiamatelo canone RAI perché fa arrabbiare. Non credo che sia solo una questione di terminologia, caro Sebastiano. Però Alberto Arioli, qui ci lasciamo, ti auguro buon lavoro, buon fine settimana. Grazie anche a voi tutti. Ciao Alberto. Ciao, grazie. E staremo a vedere come prosegue, finisce questa storia. Intanto ci fermiamo brevemente, prendiamo un po' di respiro, voi continuate a fare le vostre riflessioni, tra poco parleremo delle elezioni regionali che riguarderanno questa domenica Emilia Romagna e Calabria. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stanno arrivando valanghe di messaggi sul canone RAI, le tante domande di chi dice ci darà una risposta, io non ho la televisione, ho soltanto un apparecchio radio. Diceva Alberto Rioli, abbiamo sentito prima che si era studiato un po' le proposte, la legge di stabilità, che probabilmente ci sarà un'autocertificazione, bisognerà autocertificare che non si ha l'apparecchio, dicevo, insomma, fatta la legge trovato l'inganno, no? Questa frase abusata però sempre vera per quanto ci riguarda, almeno in Italia. Comunque potete continuare a scrivere, poi la pagina Facebook Effetto Notte è sempre lì per voi, anche per fare una grande comunità, per dire, visto che vi dicevo che anche dall'estero spessissimo ascoltano Effetto Notte, per avere un quadro della giornata. Tra poco parleremo di elezioni, ci saranno domenica. Intanto, se avete acceso la radio in questo momento e non avete visto la televisione, e non dovete vedere la televisione, se ascoltate la radio, vi riassumo le notizie. Nuovo scontro tra governo e sindacati, il leader della FIOM Landini dice Renzi non ha il consenso degli onesti, il PD commenta offende milioni di italiani e il presidente di Confindustria Squinzi sottolinea io sono più che onesto. Elezioni regionali, si chiude la campagna elettorale, Renzi in Calabria spera di fare l'amplen, la Lega si gioca tutto in Emilia. La crisi europea, la Banca Centrale Europea vede nero sulla ripresa, Draghi annuncia misure extra e le borse volano con Milano a più 3,8%. Legge di stabilità, tensioni nella maggioranza su canone RAI e social card. Il monito del Papa, basta chiedere soldi per battesimi e messe, c'è stata la visita in attesa di Napolitano. E poi Storace condannato a 6 anni per vilipendio, aveva definito Napolitano indegno e lui si difende, dice: sono l'unico condannato per questo reato. Calciopoli, Moggi lo possiamo perdonare, dice il presidente della Juve Agnelli, rappresenta una parte importante della nostra storia. E adesso andiamo a importanti elezioni, quelle regionali, che riguardano domenica due regioni, Emilia-Romagna e Calabria. Si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali. La consultazione riguarderà circa 5 milioni e mezzo di persone. Il PD, vi dicevo, punta all'en plein. Renzi era in Calabria, il centrosinistra potrebbe riprendersi il parlamentino calabrese, che si aggiungerebbe quindi a Sardegna, Abruzzo, Piemonte, conquistati in primavera. Però il vero spettro, quello che si teme, è il crollo dell'affluenza. E vogliamo, no, li sentiremo dopo, Berlusconi, Renzi, Salvini. Vi dico semplicemente che in Emilia Romagna sono 6 candidati alla presidenza della regione Emilia Romagna. Il favorito è Stefano Bonaccini, 47 anni, segretario regionale del PD, sostenuto anche da SEL, Centro Democratico, ed Emilia Romagna Civica. Alle spalle un duello tra Fabbri e Gibertoni. Alan Fabbri, appoggiato anche da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, 35 anni, dal 2009 sindaco di Bondeno, comune terremotato del Ferrarese, dove lo scorso gennaio è stato riconfermato col 65%. Giulia Gibertoni, 38 anni, ricercatrice all'Università Cattolica di Milano, è stata scelta come candidata dal Movimento 5 Stelle. È di Mirandola, vicino Modena, uno dei centri più colpiti dal sisma del 2012, è rimasta fuori dal Parlamento europeo per appena 2 preferenze nelle elezioni di giugno. Per quanto riguarda la Calabria, gli aspiranti governatori sono 5, con storie e provenienze diverse. Ve li dico così velocemente, in ordine alfabetico. Sono Cono Cantelmi del Movimento 5 Stelle, Nico D'Ascola di Alternativa Popolare, una formazione inedita politica composta da Nuovo Centrodestra e UDC, Vanda Ferro, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, Domenico Gattuso dell'Altra Calabria, che si rifà alla lista L'Altra Europa di Tsipras, che si è rappresentata alle elezioni europee, e Mario Oliverio, che è del centro-sinistra. A questo punto la parola al professor Roberto Dalimonte. Buonasera, professore. Buonasera. Politologo, docente di sistema politico italiano alla LUIS, editorialista del Sole 24 Ore. Lei avrà sicuramente fatto le sue ricerche, i suoi sondaggi. È possibile che effettivamente ci sia un grande astensionismo, visto che sono due sole regioni? Forse i grandi leader nazionali si sono tenuti un po' distanti, a parte Renzi, che è presente. Che dice? Sì, è un'ipotesi molto probabile. Io non ho fatto sondaggi nelle due regioni, le dico, quindi non ho dei dati di sondaggio, però è molto probabile. Il trend è comunque, sia a livello nazionale che a livello subnazionale, locale, regionale, è verso l'astensione, quindi una crescita delle astensioni. Questo è il trend, è un trend che va avanti ormai da qualche decina d'anni. Professore, ma con che sistema si voterà in Emilia Romagna e in Calabria, visto che tanto si discute dell'Italicum? Anzi, tra poco farei sentire anche Berlusconi, che ha fatto una dichiarazione sull'Italicum. Sentiamo giusto un pezzettino, perché forse è piuttosto lungo. Si arriva a votarlo questo Italicum entro breve, un mese, due mesi? Io penso di sì, se il governo rispetterà gli accordi, rispetterà i patti e terrà conto in questo momento delle diverse condizioni della sinistra e del centrodestra, che sono: nella sinistra c'è un partito democratico forte che può in un'unica lista richiamare, è già successo, alcuni sono già entrati, l'SCD, la Scelta Civica ed altri, e probabilmente c'è già un accordo anche con Vendola e con Sel. La situazione del centrodestra è diversa, perché la Lega sta percorrendo una strada molto efficace che la porterà ad avere un successo elettorale e non ha nessuna intenzione di diminuire la propria forza identitaria entrando in una lista comune. Quindi le liste, il premio a una sola lista potrà essere dato soltanto se a sinistra e a destra si realizzeranno le condizioni pratiche che consentano il raggruppamento in un'unica lista. Era Berlusconi a Mattino 5, professor Dalimonte. Quindi che sistemi si adotteranno per votare domenica? Si è in Emilia che in Calabria sono due porcellini. Due porcellini. Cioè, non lo dico così ironicamente, perché in realtà sono sistemi elettorali che a me vanno bene, ma sono sistemi elettorali che la Consulta ha bocciato a livello nazionale per alcune regioni e che invece valgono ancora a livello regionale. Quindi, detto in altro modo, sono due sistemi con premio di maggioranza. Quindi domenica sera sapremo chi vince, perché appunto sono sistemi a maggioranza certa. Quindi chi avrà più voti, la lista che avrà più voti, avrà la maggioranza assoluta dei seggi. E poi, come lista, abbiamo l'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Quindi sono, comunque, il punto è che sono sistemi che consentono agli elettori di sapere la sera delle elezioni chi sarà il governatore, il presidente e quale maggioranza. Quindi tutto sommato non le dispiacciono? No, a me assolutamente. Ah. Io sono un disproporzionalista. Disproporzionalista? Disproporzionalista? Sì, visto che in realtà in questo paese c'è ancora tanta voglia di proporzionalismo, io provocatoriamente mi dichiaro disproporzionalista. Poi naturalmente sistemi disproporzionali sono diversi, a me piace in particolare i sistemi a doppio turno con collegi uninominali, però mi vanno bene anche i sistemi a doppio turno di lista come quello dei comuni e come l'italico. Poi nel caso delle regioni non c'è il doppio turno, tranne in Toscana che ha riformato il suo sistema elettorale introducendo il doppio turno. È buffa questa cosa che però ci siano delle discrepanze, no, in uno stesso paese. Senta, ma non c'è anche la questione del voto disgiunto rispetto tra l'Emilia Romagna e la Calabria? Sì, perché in Calabria è stato cancellato. E quindi Calabria, la riforma del sistema elettorale calabrese è una storia incredibile, però possiamo perdere una cosa allucinante. Però alla fine hanno tirato fuori un sistema elettorale con cui domenica si vota. Si voterà e si saprà chi è il governatore e il consiglio regionale. Anche quello è un sistema premio di maggioranza. Potrebbe essere l'occasione per gli elettori calabresi di imprimere un nuovo corso probabilmente alla situazione politica calabrese, no? Dopo quella fase di stallo che aveva fatto seguito alla decadenza di Scopelliti, giusto, professore, per la condanna. Sì. Vediamo insomma quale sarà l'esito, visto che già domenica sera si saprà con chiarezza. Grazie professor Roberto Dalimonte. Grazie a lei. Grazie, buon fine settimana. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E molto velocemente, in pochi secondi, vi ricordo che oggi si è riaccesa la polemica governo sindacati con la FIOM, in realtà, perché Landini ha detto Renzi non ha il consenso degli onesti, poi bufera su di lui un po' ritrattato, si è scusato, ha detto insomma tutti possono dire una cavolata, e poi il Draghi che per quanto riguarda la crisi e la ripresa stentatissima dice che la banca centrale è pronta a nuovi acquisti e questo ha fatto volare le borse. Bonus bebè doppio sotto 7.000 euro, polemiche sul social card, sul canone RAI da pagare, questa è l'ipotesi, nella bolletta elettrica. Lunga visita sorpresa di Napolitano dal pontefice, che dice la Chiesa non sia affarista e i laici denunciano se ci sono soldi da pagare per battesimi, permesse eccetera eccetera. Rush finale, abbiamo parlato, in Emilia e Calabria c'è lo spettro dell'astensionismo. Europa 24 notte. Parliamo di Europa e parliamo di Albania. Dopo aver ottenuto lo status di paese candidato per il momento all'Unione Europea, l'Albania avvia una serie di riforme, a cominciare dalla lotta alla corruzione e al crimine organizzato, una delle richieste di Bruxelles per Tirana. Siamo andati dentro le aule della Suprema Corte, dove il paese delle Aquile vuole mostrare al mondo il suo nuovo volto. Da Tirana c'è Raffaella Calandra e poi il resto del reportage sarà domani mattina. Albanese verso l'Europa passa anche attraverso i palazzi di giustizia. È qui, in una nuovissima aula della Suprema Corte, un'aula con tutti i più moderni strumenti tecnologici mostrati dal presidente Sander Simoni, che l'Albania si prepara a processare pubblicamente le cellule terroristiche che arruolano i jihadisti d'Occidente da mandare in Siria al fianco dell'ISIS. Già una ventina quelli incriminati, ma qui saranno processati anche tutti coloro che l'hanno trasformata col tempo in terra di impuniti, i corrotti della pubblica amministrazione, i coltivatori di droghe per mezza Europa, i mafiosi che ora investono pure sui mezzi di comunicazione, i rivenditori di diplomi falsi. Tutto per anni qui è passato, ma ora il vetro che avvolge questo luccicante edificio nel cuore di Tirana, dove palazzoni malandati si alternano a insegne sgargianti e a vaste periferie fatte da poco più che baracche, ora questo vetro diventa il simbolo dell'operazione Trasparenza avviata per avvicinarsi a Bruxelles. La glasnost del paese delle Aquile, una volta ottenuto lo status di candidato, poggia su 5 condizioni dell'Unione Europea, tra cui fondamentale è la lotta alla corruzione e al crimine organizzato di ogni genere. Si capisce allora come con orgoglio il ministro dell'interno Samir Tahiri, 35 anni, snoccioli in un inglese buono quasi come l'italiano, che qui quasi tutti hanno imparato dalla televisione, i numeri dell'operazione che ha portato alla distruzione di 530.000 piante di cannabis e avviato solo nella prima parte dell'anno 1918 procedimenti criminali. Come sapete, l'Albania è stato un paese di produzione di cannabis, soprattutto destinata alle piazze di mezza Europa. Insieme alla polizia italiana abbiamo fatto questa importante operazione, l'Hazard, all'interno di un'area dove la polizia fino ad ora non era in grado proprio di entrare. È la più grande operazione di polizia di sempre e ha portato al sequestro di droghe per 7 miliardi. Abbandonato il traffico caotico di Tirana e i colori dei locali notturni in forte odore di riciclaggio, è qui, nell'entroterra, tra paludi e montagne, che la fatica e la povertà dell'Albania è molto più evidente, anche se le carte ora dicono che la sua economia sta crescendo. La desolazione di questa provincia albanese fa da sfondo al film Bota, coproduzione italo-albanese, il primo ad affrontare pure le ferite della storia più recente, come racconta la regista Iris Elezi. È il mio primo film che affronta davvero i drammi del passato e abbiamo scelto di farlo parlando del presente, così da lasciare allo spettatore la possibilità di decidere e farsi da solo un'idea di quali siano stati i traumi collettivi del comunismo. Io sono albanese, parte di questo paese, e anche se non sono mai stata indagata per alcunché, so come il mondo ci guarda. So che siamo molto meglio di quanto il mondo ci consideri. E anche questa per l'Albania è la prospettiva da cui guardare meglio il sogno europeo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E dall'Albania finiamo dritti nello spazio con il nostro Enrico Pagliarini, che tra poco, appena finito Effetto Notte, subentrerà con il suo 2024. Buonasera, prima c'è il GR. Prima c'è il GR, sì. Stavo pensando, ma noi diciamo buonasera, sono, ma questo è Effetto Notte. Sì. Dovremmo buonanotte. Dire buonanotte, buonanotte. No? Ah, sì, l'effetto notte, nel senso che poi il riverbero di quello che gli ascoltatori sentono, le ascoltatrici, cioè tutta la notte poi, perché fanno suoni tranquilli dopo Effetto Notte. Allora, noi ci trasferiremo nello spazio, perché nella prima parte di 2024, dopo le nostre digital news, il nostro diciamo notiziario si chiama Digital News, dopo ci tufferemo nello spazio, virtualmente, perché sono pochissimi quelli che possono andare nello spazio. Da circa 5 anni si sta addestrando Samantha Cristoforetti, di lei parleremo, l'abbiamo avuta ai nostri microfoni un po' di tempo fa, negli ultimi giorni è chiusa a Baikonur e non si può in Kazakistan. Però c'è un accordo con la Russia per far partire i razzi da lì. Quando dovrebbe partire lei? Allora, domenica sera 22:01. Quindi dopo le elezioni lei parte. Esattamente. Esattamente. Parleremo dell'importanza di questa missione, che è da un certo punto di vista una missione di routine per la Stazione Spaziale Internazionale, le agenzie internazionali, però chiaramente per l'Italia c'è questa emozione di un astronauta, tra la prima astronauta donna italiana che finisce sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si porterà, questa forse è la novità più simpatica, si porterà una macchina per il caffè. Però è particolare, quindi racconteremo. Ma francamente la marca me l'hanno detta, ma non me la ricordo. Poi, se volete scoprirla voi a 2024, marca spaziale? Non lo diciamo. Senti, quanto ci mette, quanto torna? L'ultima cosa? Sei mesi. Vedremo come torna. Se uno dopo due mesi non ne può più, deve rimanere lì, no? Caro mio. Bene, ora non ne possiamo più di Enrico Paglierini. Buona ci sarà serata, dopo 2024. Ciao Enrico, perché dobbiamo sapere che tempo fare in fine settimana, caro colonnello Mario Giuliacci. Salve Roberto, buonasera. Buonasera colonnello. Bene, diciamo che è arrivata l'alta pressione dopo quasi due mesi di piogge ininterrotte, per cui diciamo la cosa importante da due punti di vista: uno, che finalmente sono cessate le piogge torrenziali che ci hanno perseguitato per molto tempo; la seconda, che con l'alta pressione ovviamente ritorna bel tempo, ritorna il sole su gran parte d'Italia per questo fine settimana, a parte un po' di nuvole diciamo sulla Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna e Toscana, ma nuvole innocue. Per di più diciamo le temperature nelle ore centrali del giorno saranno gradevoli, quindi insomma un aspetto tutto sommato più che positivo. Unico neo, attenzione ovviamente le nebbie, perché ovviamente con l'alta pressione vanno a nozze. E quella è la stagione, colonnello Mario Giuliacci, www.meteogiuliacci.it per il resto. Buon tempo a te, colonnello. Grazie Roberta, ciao. Noi a dopo.